a tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, bentornati, è un piacere ritrovarvi dopo l'estate scorsa per queste due settimane con A Tempo di Sport. Benvenuti da Massimo Callegari, da Flavio Suardi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Cosa ci ha lasciato questo weekend di sport? Il primo successo in carriera a 33 anni in Formula 1 di Mark Webber al Nürburgring, la possibilità naturalmente per Rinaldo Nocentini di godersi la maglia gialla anche in questa giornata di riposo al Tour de France dopo la tappa di ieri, e le prime uscite stagionali, pre-stagionali del Milan e della Roma, amichevoli a Varese per i rossoneri, doppietta di Inzaghi di fronte al presidente Berlusconi che, come rivela oggi la Gazzetta, ha fatto giurare Ronaldinho davanti ai suoi compagni che si comporterà da professionista per tutta la prossima stagione, li trascinerà al successo 1-1 per la Roma contro i rudi cechi del Viktoria Pilsen. La Roma sarà la prima squadra italiana a giocare una partita ufficiale per i turni preliminari di Europa League già alla fine di luglio. Poi naturalmente ennesima manifestazione di egocentrismo di Zlatan Ibrahimovic, che evidentemente si era sentito messo un po' da parte in questi due giorni dal confronto tra Moratti e Mourinho, e ieri ha voluto ribadire che dopo essersi sentito felice come un bambino al raduno dell'Inter, ora non sa se rimarrà in nerazzurro. Vediamo, vive alla giornata. Non vivrà più alla giornata Carlitos Tevez, che è ufficialmente da oggi un giocatore del Manchester City, che lo ha pagato 28 milioni in Inghilterra. Inghilterra, Spagna, modelli di riferimento difficilmente trattabili e riportabili in maniera totale qui in Italia anche per il lavoro sul settore giovanile. Se ne parla moltissimo in questo periodo, anche perché le difficoltà economiche dei club sono evidenti, per cui bisogna cercare di capire, come ha fatto oggi la Gazzetta dello Sport con due pagine molto ampie e curate, quali possono essere i giocatori giovani che saranno protagonisti del prossimo campionato in Serie A e quali sono quelli appetibili sul mercato. Noi vogliamo capire invece innanzitutto quali sono i parametri fondamentali per capire se un giocatore giovane è pronto per giocarsela con i grandi. Lo facciamo con un amico di Radio 24, un grandissimo esperto del settore, Mino Favini, da anni tantissimi, responsabile del settore giovanile, prima al Como, poi all'Atalanta. Bentornato, buon pomeriggio. Grazie, buongiorno a tutti voi. Dunque, le questioni naturalmente in questo momento sono di grande attualità. Lei ha un'esperienza che ci può aiutare per capire innanzitutto se ci sono e quali sono evidentemente i parametri fondamentali, i momenti fondamentali, l'età, per determinare le prospettive di crescita di un giocatore. Perché noi certo, in Italia spesso arriviamo quando i giocatori sono già formati su quelli dell'estero e costano molto di più. Sono chiaramente i momenti della formazione che fanno riferimento soprattutto a quello che è l'aspetto tecnico, l'aspetto fisico, l'aspetto atletico e poi l'aspetto tattico come ultima situazione, ma soprattutto poi con le qualità del carattere che definiscono un po' quella che è il completamento, la formazione del giovane calciatore. Quindi bisogna attendere nel tempo, non avere eccessiva premura. Ci sono naturalmente i predestinati, però ci sono anche quelli che poi crescono nel tempo e danno buoni risultati. I nostri club, rispetto a quelli stranieri, secondo lei sono in ritardo per una questione di mentalità, perché non si ha tempo e voglia e modo di aspettare la crescita dei giovani, per la disponibilità economica, quindi per gli osservatori che evidentemente hanno un costo, o per la capacità anche di selezionare i giocatori più bravi rispetto agli altri? Ma allora un po' tutte queste cose naturalmente. È chiaro che occorre, come dicevo prima, avere la dovuta pazienza. I nostri club non hanno il coraggio che hanno certe società all'estero, soprattutto in Inghilterra, per poter mettere subito alla prova un giovane calciatore, un ragazzo che promette, e comunque ragazzi in gamba, ragazzi di buona qualità, si sono visti anche nell'ultima partita dell'Under 21, sì, giocata dalla squadra di Casiraghi, perché abbiamo perso sì la partita più importante, però onestamente sul piano del gioco abbiamo fatto anche meglio. Sì, questo è vero. Naturalmente per chi ci ascolta i numeri di riferimento sono sempre gli stessi, 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666 per questi temi, per quelli di cui parleremo nel corso di questa giornata, perché poi molte squadre di alto livello, questa è la novità principale, il Milan, la Juventus, l'Inter, stanno lavorando molto sui giovani e Favini, in questi giorni José Mourinho ha detto la società sa che ci sono giocatori come Vieira, Mancini, Burdisso, forse anche Rivas, anzi sicuramente anche Rivas, che non rientrano nei miei programmi, loro resteranno, possono allenarsi con noi, ma sappiano che nelle amichevoli verranno dopo i giovani come Obi, Destro, Crin e altri. È un passaggio di mentalità importante questo o è una cosa che Mourinho deve dire inizialmente per dare motivazioni ai suoi giovani? No, è un passaggio molto importante. Penso che Mourinho abbia detto con convinzione, abbia proposto con convinzione questa nuova situazione. I giovani, quei giorni non ha scherzato, ha messo in onda, diciamo, Balotelli, Santon addirittura, che è un 91, e quindi è probabile che questi altri giovani di cui ha parlato prima, nel prossimo campionato qualcuno di loro possa fare la stessa strada. Ma è così come con l'Inter, perché c'è da notare che sono tornate a investire sul settore giovanile le grandi anche, cioè Inter, Milan, Juventus. Se voi pensate agli acquisti mirati del Milan, ha preso due ragazzi, Zigoni del 91 e Beretta del 92, ragazzi promettentissimi che potrebbero avere già quest'anno l'opportunità, così come è successo per Balotelli e Santon, di esordire nel campionato maggiore. Ecco, di questi due giocatori ci può dare un profilo tecnico indicativo per avere un'idea maggiore rispetto a quanto si è detto, rispetto alle grandi aspettative che lo stesso Adriano Galliani ha riservato loro nelle giornate di presentazione? Sì, di Zigoni e Beretta naturalmente. Sì. Allora, Zigoni è un centravanti che sa, tecnicamente anche capace, buona la struttura fisica, buonissime le situazioni, la capacità di risolvere le situazioni in zona gol. È un ragazzo che è venuto alla ribalta subito nel campionato primavera, tant'è che è stato poi impiegato spesso in prima squadra, ha segnato già dei gol in Serie B. Beretta ancora non ha fatto l'esordio, ma è un 92, è un ragazzo forte fisicamente, potente, ha le caratteristiche del bomber, dell'attaccante, deve migliorare un pochettino sotto l'aspetto tecnico, però sono ragazzi che promettono bene e che possono fare sicuramente bene. Ecco, in questo senso Zigoni è stato citato non come riferimento unico e assoluto, però tra le righe si è capito che era uno degli obiettivi e delle dichiarazioni di Francesco Rocca, allenatore dell'Under 20 italiana, che dopo i giochi del Mediterraneo, in cui tra l'altro ha detto noi squadra di ragazzi abbiamo perso da una Spagna formata già da uomini, sia dal punto di vista fisico che del comportamento in campo, Rocca ha aggiunto questi giovani non sanno allenarsi duramente, bisogna educarli un po' di più al sacrificio. Zigoni anche per questo e non solo per problemi fisici se n'è andato presto dal ritiro. Cosa pensa lei che ha un contatto diretto col campo con questi ragazzi? Allora, questa è un po' la filosofia di Francesco Rocca. Sì. Lui crede in maniera assoluta nel lavoro, pretende il massimo dell'impegno da tutti, come giusto che sia. Qualche volta magari riesce ad ottenere il massimo da alcuni ragazzi che capiscono immediatamente quello che lui vuole, un altro invece ha bisogno di più tempo per capire e quindi magari tarda un pochettino a entrare nel merito degli insegnamenti di Rocca. Comunque lavorano tutte in modo corretto le squadre professionistiche a livello giovanile, sono tutti tecnici che le guidano, sono preparati, quindi non penso che ci siano grossi problemi sotto questo aspetto. Lei già nel 2000, in un'intervista che ho recuperato sull'archivio online del Corriere, parlava di cifre attorno ai 3 miliardi di investimenti per il settore giovanile dell'Atalanta. Oggi, dell'Atalanta, sì. Oggi c'è chi parla di cifre attorno ai 5 milioni di euro spesi da parte dell'Inter, però è chiaro che ci sono altri club come il Liverpool, ad esempio, che hanno 70 osservatori in giro per il mondo, seguono 14.000 ragazzi. L'Inter ha 25 osservatori più o meno ed è considerata una delle squadre più preparate in questo senso. Quanto costa per essere all'altezza delle migliori squadre europee o per avere comunque una buona capacità di selezione il gruppo degli osservatori? Sì. Allora, l'Atalanta impiega circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno circa per tutta l'attività del settore giovanile. E come dicevo prima, sono tornate ad impiegare persone e soldi naturalmente ed euro le grandi, cioè Inter, Juventus e Milan soprattutto. E penso che l'Inter impieghi anche di più di 5 milioni di euro in ambito giovanile, così come il Milan e così come la Juventus. È chiaro che per ottenere risultati e competere con i colossi diciamo stranieri, Liverpool, Chelsea, Manchester e compagnia, se non ti adegui un attimino ai loro ritmi e alle loro spese, è difficile poi ottenere il meglio. Certo, per chiudere questa chiacchierata molto, molto piacevole, un aspetto legato alle figure tecniche che lavorano nel settore giovanile, perché ad esempio quest'anno un paio di ex allenatori del settore giovanile del Milan, Evani e dell'Inter, sì, Esposito, sono passati in prima squadra in serie minori e qualcun altro ritiene che invece bisogna ricercare istruttori che vogliano fare la loro carriera, la loro vita sportiva nel settore giovanile. È una distinzione così netta secondo lei? No, perché anch'io ho avuto come allenatori nel settore giovanile Prandelli, Gustinetti, Vavassori, che poi chiaramente hanno percorso la loro strada e sono andati a guidare squadre professionistiche di livello. Occorre anche lì saper scegliere. Per esempio, Chico Evani, secondo me, era un ottimo allenatore in campo giovanile. Io ho sempre visto le sue squadre giocare un buonissimo calcio e non capisco come mai abbia lasciato, però può darsi che anche per lui sia giunto il momento di provare delle esperienze diverse con squadre di ragazzi, di giocatori già formati, per poi magari spiccare il volo, diciamo, in squadre più importanti. Io ritengo che molti degli allenatori delle squadre giovanili siano ben preparati e siano in grado di svolgere pienamente bene il loro compito. Dopo è chiaro che la prova dei fatti, il campo dice sempre la verità. Sì, peraltro anche Gasperini, insomma, ha lavorato benissimo con la Juventus, ad esempio, e poi moltissimi tecnici naturalmente provengono dal settore giovanile. Io ripeto, penso sempre a Prandelli o a Giovanni, sì, Vavassori o a Gustinetti o ad altri allenatori che hanno fatto la loro buona esperienza in campo giovanile, ed è utile per loro perché imparano a conoscere i calciatori fin da quando sono ragazzi e nei vari passaggi, nelle varie età, chiaramente si presentano problemi diversi e li sanno affrontare poi nel modo dovuto. L'ultima questione riguarda invece i giocatori che hanno qualità che vengono indicate da tutti come molto interessanti di prospettiva e che poi però vanno in Serie B una, due, tre stagioni o in squadre di basso livello di Serie A e non maturano fino a una crescita come quella che ci si aspettava. Penso a Lodi, che ormai ha 25 anni, però esatto, All'Empoli all'inizio era considerato moltissimo, allo stesso, sì, Foti, che ha segnato 17 anni in Serie A e poi è tra Vicenza e Treviso da un paio di stagioni in Serie B. E quante responsabilità hanno questi ragazzi e quanto invece chi non dà loro motivazioni di crescita costanti? E va equamente diviso la responsabilità. Cioè a volte sono i ragazzi stessi che non intendono ragione, non capiscono che per giocare a calcio occorre completare quello che è il proprio bagaglio tecnico con le doti del carattere di cui parlavo prima, cioè sì, spirito di sacrificio, spirito di gruppo, volontà, determinazione, no? E quindi tutte queste qualità che ti aiutano e ti completano. Però poi c'è di mezzo anche il problema delle società, e io vi posso portare una situazione che spiega pienamente come bisogna avere a volte pazienza con i giovani, perché mica tutti maturano a 18-19 anni come possono essere stati, almeno per me, Montolivo e Pazzini. Sì. Ma abbiamo messo fuori a fare la dovuta esperienza, diciamo, Padoino e Guarente, e meno male che li abbiamo ripescati, perché adesso Padoino e Guarente sono giocatori collaudati già in Serie A, da due campionati giocati a buonissimo livello, e sono anche sul mercato perché hanno richieste da squadre, diciamo, più importanti dell'Atalanta. Certo. Grazie Mino Favini, a presto. Niente, è sempre un piacere. Grazie a tutti voi. Grazie Mino Favini, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta. Bentornati, seconda parte. Abbiamo parlato un po' di giovani con Mino Favini, uno dei guru del settore all'Atalanta da una vita. Naturalmente questo ha motivato alcune delle vostre considerazioni al 349-238-6666 con i vostri sms, ad esempio quello di Roberto da Arezzo, dice: voler Deco, Carvaglio, resuscitare Cannavaro, tentare Grosso, puntare su Calazze, vuol dire puntare sui giovani? Certamente no, ma è anche chiaro che non si può cambiare in maniera radicale una filosofia che dalle nostre parti da anni ormai non veniva più perseguita, scusate, e naturalmente questo significa anche dare la possibilità ai giovani di inserirsi in maniera graduale e soprattutto di darla a quelli che già sono considerati pronti e all'altezza per giocare in prima squadra. E poi Lorenzo da Milano chiede cosa pensiamo delle parole dette da Mourinho sabato. Ve lo dirò un po' più tardi per farvi anche così ricordare un riferimento molto interessante, curioso, provocando anche un po' quello che è al momento il grande provocatore del calcio italiano e non solo, con un raffronto tra le sue dichiarazioni attuali e quelle che fece qualche tempo fa e che non gli portarono molta fortuna ai tempi del Chelsea. Tra poco parleremo ancora di giovani con un'altra telefonata con un collega giornalista, Gianluca Grassi del Guerin Sportivo. Prima però Stefano da Bologna, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Prego. Io avrei voluto fare una domanda a Favini, ma a questo punto provo a esprimermi in questo senso. Volevo sapere, ci sono società che prendono ragazzini di 12 anni nel loro settore giovanile e poi dopo un paio d'anni non vedono una crescita, non a livello tecnico, per il quale diciamo sono stati scelti proprio per quello, perché probabilmente sono già anche abbastanza pronti per iniziare il percorso. Poi ai 14 anni, se non vedono una crescita fisica appropriata o quant'altro, vengono poi messi da parte. Allora avrei voluto chiedere a Favini, che credo uno dei migliori, se non il migliore in assoluto nell'ambito, sì, psicologicamente come trattare questi ragazzi, perché avendone avuto un caso specifico ho visto che ne ha risentito moltissimo a livello psicologico, quindi avrei chiesto indicazioni in merito a questo, ecco. Adesso la situazione com'è? Adesso si gioca a calcio così, però ecco, vedo che a livello psicologico ne ha risentito molto, perché con quello che si vede in giro i ragazzi pensano di essere già arrivati dopo un anno o due, avendogli spiegato tutto e quant'altro, però vedo che appunto lasciano un segno, ecco. Quindi le società, oltre a investire soldi e quant'altro, a mio avviso dovrebbero avere molta più pazienza, come diceva appunto Favini, perché pensano a tutto fuori che alla fine poi al ragazzo, alla crescita del ragazzo a livello psicologico, ecco. Certo, questa è una buona osservazione, io penso di poterla girare per avere chiaramente non una risposta assoluta, perché poi ogni esperienza specifica a quell'età appunto particolare e ha i suoi risvolti specifici, però per capire qualcosa di più mi rivolgo a Gianluca Grassi, collega del Guerin Sportivo che cura da 10 anni ormai le rubriche sul settore giovanile e non solo, e quindi ha anche un'esperienza diretta in questo senso. Benvenuto Gianluca. Ciao, buon pomeriggio e grazie a voi. È un tema interessante, molto delicato quello che ha proposto il nostro ascoltatore Stefano da Bologna, ovvero quei giocatori, quei ragazzi giovani, giovanissimi, che già in età tra i 10, 11, 12 anni arrivano in club di primo piano e che poi magari a 13, 14, 15 non hanno la possibilità di crescere ulteriormente e vengono messi un po' da parte. Ci sono poi degli svolti da affrontare, non solo tecnici, anzi soprattutto personali, credo, in questo senso. Sì, direi che il problema che ha posto l'ascoltatore, che tra l'altro chiamava da Bologna, quindi la mia stessa città, credo sia uno dei problemi fondamentali che ci si deve porre quando si fa attività giovanile nel calcio in modo particolare, dove sicuramente i ragazzi sono molto sollecitati dal punto di vista delle aspettative. Sì. Aspettative, a mio modo di vedere, spesso esagerate, che ricadono anche su ragazzini molto giovani, troppo giovani secondo me, cioè la selezione ormai si è abbassata moltissimo, e questo se da una parte permette alle società indubbiamente professionistiche di lavorare, di forgiare i ragazzini già fin dalla tenera età, e pone però questo problema che questi ragazzini credono, una volta chiamati dalla società professionistica, di essere già, come dire, quasi arrivati, di avere già compiuto passi importanti, e invece le cose non stanno così. Mi verrebbe da dire, ma credo che l'ascoltatore lo possa immaginare bene, l'abbia anche sperimentato, che ci vuole grande equilibrio su tutti i fronti. Ci vuole grande equilibrio da parte della società che gestisce il ragazzino, facendogli quindi capire che questa chiamata, questa possibilità di giocare in un settore giovanile professionistico non è comunque la conclusione di un ciclo di formazione. Quindi il ragazzo ha una chance, la deve sfruttare, ma deve anche sapere che questa chance può portare solo pochissimi ragazzi alla fine del percorso. Grande equilibrio da parte delle famiglie, e io qui naturalmente non parlo per l'ascoltatore che ha appena chiamato, ma devo dire che purtroppo trovo in molte famiglie, in molti genitori, un'aspettativa molto spesso esagerata, una pressione che nasce già fin da dentro le mura di casa di cui il ragazzino poi finisce per soffrire. Sui genitori dovremo lavorare tantissimo, si deve lavorare tantissimo livello di settore giovanile, perché non sempre, anzi direi molto poco, la famiglia è di supporto utile all'attività sportiva del ragazzo. Certo. Punto terzo, credo che sia compito della società professionistica farsi poi carico di un percorso di recupero di questo ragazzo, cioè bisogna anche dire, avere il coraggio di dire, ed è una realtà, che non sempre essere scartati dalla società professionistica significa comunque uscire da un certo giro. Perché le società professionistiche possono anche sbagliare, perché un ragazzo magari può ritornare in un buon settore giovanile e dilettantistico, da lì recuperare per tornare poi a essere inserito nuovamente in un circuito importante. Quindi essere scartati a 14 anni da una società professionistica non significa avere comunque precluso un certo tipo di calcio. Ecco, ci sono, e qui ecco, naturalmente ci sono società come l'Atalanta, si diceva prima, non sì. È più in linea Favini, ma io so che l'Atalanta ha molta cura nel seguire anche un percorso di uscita che può poi diventare anche un percorso di recupero. Ecco. Ecco Gianluca, tornando all'aspetto tecnico invece, noi abbiamo visto e seguito le finali primavera, seguiamo il torneo di Viareggio annualmente, ci sono giocatori che sembrano più o meno pronti per fare il salto in Serie A e lì adeguarsi in maniera stabile a quello standard. Quanto sono veritieri i verdetti delle ultime stagioni rispetto poi a quanti giocatori hanno fatto nella massima serie, ovvero l'Inter che ha vinto il campionato primavera, che ha vinto anche in altre categorie, la Juventus che l'ha fatto in precedenza, nel ciclo precedente. Poi quanto il risultato di squadra significa che ci sono giocatori individualmente pronti per arrivare a giocare in Serie A? Ma il risultato di squadra è importante, è comunque indice di una certa qualità del lavoro di quel settore giovanile, e non sempre però il risultato di squadra si accompagna, ecco, così la conferma individuale, anche perché dobbiamo pensare, qui mi ricollego un po' al discorso di prima, non tutti i ragazzi hanno la stessa lo stesso grado di maturazione, sì, a livello psicofisico e anche tecnico, quindi ci sono ragazzi che sbocciano prima, altri che hanno un percorso più ritardato, ma questo non significa che non possano arrivare comunque a buoni livelli, e lo vediamo con degli esempi molto semplici e concreti. Vediamo il Santon, giovanissimo, che comunque è già pronto a reggere una ribalta importante come quella del campionato italiano, della Champions League. Altri ragazzi che ritroviamo un pochettino più tardi, e quindi questo spiega come ad esempio alcuni ragazzi dell'87, dell'88 possono magari, che rispetto a Santona hanno 3-4 anni di più, possano comunque magari seguire un percorso un pochettino più complicato, andare a finire in una Lega Pro, in un campionato di Serie B, e dopo un paio di anni di maturazione possano comunque ripresentarsi sulla massima ribalta. Ecco, in linea generale bisogna anche dire che forse anche per colpa un pochettino di noi giornalisti c'è sempre molta fretta nell'etichettare il talento, nel battezzare la promessa. Ecco, con i ragazzi bisogna avere un pochettino più di cautela. Chiaro, certo, che queste, sì, manifestazioni come il campionato italiano primavera, come il Viareggio, come i tornei continentali Under 17, Under 19 danno delle segnalazioni importanti, che comunque non sono da sottovalutare. Da qui, ripeto, a parlare di nuovi fenomeni, secondo me un pochettino ne corre, ecco. Grazie Gianluca Grassi, collega del Guerin Sportivo, a presto. Grazie a voi, ciao, un saluto. Diversi ascoltatori in linea all'800240024, tra un attimo spazio a loro, stiamo parlando, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo, forse anche con alcuni dei vostri interventi di giovani, di investimenti sui settori giovanili, di inserimento poi in prima squadra. Si è parlato anche delle difficoltà per chi lascia le società professionistiche dopo essere arrivato da giovane, giovanissimo, a 11-12 anni. Le lascia poco dopo. Aldo dice tutto vero sui genitori, ma anche le società dovrebbero limitare gli allenamenti nelle categorie dei più piccoli, pulcini ed esordienti. È vero anche questo, sicuramente la differenza di qualità tecnica rispetto a Sud America ad esempio risiede nel fatto che lì si gioca ancora in strada, cosa che da noi ormai accade sempre più raramente, e quindi le capacità tecniche si formano in maniera molto rapida. Non mi piacciono i cenni autoreferenziali, però in questo caso forse sono utili alla discussione. Io da giovane, piccolissimo, ho giocato nella SPAL, nella squadra della mia città, Ferrara, a 12 anni, a 14 non ero più lì, e sicuramente non è semplice vivere in quella età adolescenziale un certo tipo di accantonamento o di disillusione, però è anche vero che tutti coloro, famiglia, scuola e altri che stanno attorno al ragazzo che vive quella situazione specifica sono fondamentali per far capire che il calcio è un grande sogno, una grande prospettiva, ma non c'è solo quello, e bisogna mantenere delle alternative parallele sin da quell'età per poi non rimanere troppo scottati da quel tipo di esperienza, che comunque serve tantissimo ed è fondamentale per tutto il resto della crescita. Davide da Modena, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a lei. Niente, semplicemente una considerazione. Sì. Visto gli ultimi acquisti sia del Real, che sono abissali, ma soprattutto anche della politica del Milan, che ha acquistato Ronaldinho a metà, diciamo così, perché non era pieno delle sue forze, e Beckham, e soprattutto poi anche l'ultimo campionato che abbiamo visto dell'Under 21, dove molti giovani chiaramente cercano di mettersi alla luce. Credo che in questo momento, magari anche dovuto dalla crisi, si cercano altri introiti, cioè di pensare di fare degli investimenti, soprattutto di marketing, come credo sia stato approntato l'acquisto di Beckham proprio del Milan, credo che sia calzante. Stessa cosa, poi è stato riportato alla ribalta gli ultimi acquisti appunto del Real Madrid di Ronaldo e di Kakà, dove hanno riempito, come avete detto anche voi, per un nulla o per un 2-3 palleggi di questi due giocatori, e lo stadio dove sono stati poi venduti chiaramente biglietti, magliette, eccetera, cioè si è stata fatta una grande operazione di marketing. Però con delle oggi... qualità tecniche di prospettiva anche ancora di crescita dei giocatori diverse, perché Beckham si è inserito bene, con grande professionalità, con utilità anche tattica per il tipo di contesto in cui si trovava al Milan, però è un ultra trentenne, mentre Ronaldo da 24 anni che ha pochi di più, e quindi è vero che è una grande operazione di marketing, ma è parallela a un grande investimento tecnico in quel senso. Sì, anche. Sì, no, non discuto assolutamente, cioè non volevo in questo modo mettere a confronto i giocatori. Certo. Volevo solamente commentare, di conseguenza riportare, sì, a mio avviso il ruolo di questi acquisti, che non a livello tecnico, ma ripeto, ribadisco, a livello proprio secondo me di investimento economico. Poi chiaramente Ronaldo e Kakà non sono da paragonare a un Beckham o altri giocatori, questo è evidente. Sì, sì. Era solamente perché credo che sia stato dato a loro risalto più per gli investimenti e le vendite delle magliette, che si è passato al 70.000 magliette, migliaia di magliette a 70 euro cada una, si sono fatti due conti, quindi l'investimento di Kakà o di Ronaldo effettivamente non è costato così tanto, ma si è ammortizzato l'investimento degli stessi giocatori. Certo. Riguardando chiaramente il Milan, è stato un disastro poi perché è intervenuta anche la famiglia per chiudere un po' gli investimenti sbagliati del presidente, dicendo bisogna vendere perché il buco è abbastanza grande, siamo stanchi di chiuderlo. Era solamente per questo, ripeto, che i giovani abbiano poco spazio in questo contesto. Ecco. Beh sì, sicuramente comunque si può sviluppare una mentalità parallela in questo senso, si può cambiare, si è sempre in tempo per cambiare, probabilmente lo stiamo facendo anche in Italia. È anche vero che investimenti che abbiano solo un fine commerciale non hanno mai dato poi tutto il ritorno che possono avere quelli che hanno un fine commerciale, ma anche, ribadisco, tecnico, nel senso che anche il Real Galattico dell'ultima fase di Florentino Perez, con troppi giocatori non complementari insieme, Beckham, Figo, Owen, Raul, Zidane, non era una squadra che poi dal punto di vista tecnico poteva portare a risultati interessanti, quindi a maturare altri introiti per i soldi che arrivano dalla Champions e da tutti i trionfi e da quanto anche il marchio rimane esclusivamente inteso come qualcosa di positivo e di vincente. Gabriele da Firenze, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. L'ho chiamata per avere una sua opinione su come stia lavorando Prandelli a Firenze, in particolare appunto con i giovani, visto che la Fiorentina per prima, con l'arrivo della Valle, ha deciso di cambiare il modo di far calcio, contenendo i costi, puntando sui giovani, e credo che Prandelli tutto sommato sia stato scelto anche per questo. Però così, visto dall'esterno, sembra che pur con risultati estremamente importanti da questo punto di vista, quindi la gestione dei giovani, la gestione sia un po' deficitaria. Pazzini in fin dei conti mi sembra sia stato un fallimento a Firenze, anche se per me invece è un grande giocatore, un buon giocatore, e Montolivo stenta a decollare, e sono i due giocatori che aveva insieme a Prandelli citato proprio prima, sì, Favini. Lei è un abituale frequentatore del Franchi? Scusi? Lei è un abituale frequentatore del Franchi? No, dello stadio no, magari cerco di seguirlo il più possibile in televisione, ecco. Lei pensa ad esempio che Montolivo sia un giocatore che con un'altra guida tecnica potrebbe fare il salto di qualità che finora ancora non ha fatto livello? Io non lo so minimamente, chiedevo una sua opinione in proposito, ecco, se può essere un problema di gestione tecnica dei giovani che sono arrivati a Firenze, tra cui più promettenti Montolivo e Pazzini, sì, oppure si sono state fatte delle scelte sbagliate nei giovani acquistati dalla Fiorentina. Ma no, sicuramente dalla primavera non è arrivato praticamente nessuno, ad esempio. Sì, ad esempio c'erano ragazzi giovani dei quali si parlava molto, che anche un paio d'anni fa giocarono a Viareggio, non solo italiani, anche Able, Mazzuc, giocatori dell'Europa dell'Est, un francese, Repilia, insomma, senza entrare troppo nello specifico, dei quali si parlava parecchio, che poi sono finiti o in Serie B all'estero oppure in club di livello minore. È chiaro che i giovani servono anche per essere poi utilizzati in sede di mercato, nelle trattative, perché possono essere inseriti nelle trattative per acquisire altri giocatori da altre squadre. Non tutti, anzi pochissimi, crescono in un club e poi rimangono in quello e si affermano in quello. Dal punto di vista invece delle considerazioni su Prandelli, è sicuramente, perché Arrigo Sacchi, del cui parere mi fido molto in questo senso, è stato sempre molto sicuro, è sicuramente un allenatore preparatissimo, tra i più preparati dal punto di vista tecnico e tattico del nostro campionato. Bisogna capire anche per lui quanto possa essere utile rimanere nella piazza di Firenze, nella stessa piazza, se la società non gli permette di creare un gruppo che possa migliorare i suoi obiettivi di anno in anno, o se invece non sia necessario anche per lui misurarsi per avere una percezione assoluta e più o meno definitiva delle sue capacità con una realtà come quella della Juventus, di cui si era parlato, o come quella purtroppo della Roma, in cui si era trovato e poi che per problemi familiari non ha potuto lavorare. Certamente la questione legata a Pazzini lo si è capito in maniera molto chiara, era di rapporto personale e non tecnica, quindi non di valutazione esclusivamente tecnica del giocatore, ed è chiaro che Prandelli probabilmente, quando si trova di fronte a un rapporto personale che non lo soddisfa del tutto, poi prende decisioni che possono essere anche molto drastiche, di cui forse ci si può anche pentire, vedendo poi quello che Pazzini sta facendo a Genova, ammesso che Pazzini, Mutu, Girardino, tutti insieme, potessero giocare con continuità nella Fiorentina. Paolo da Torino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi sente? Sì, prego. Benissimo. Senta, io mi riallaccio di nuovo alla questione del settore giovanile. Sì. È una cosa molto importante, determinante, però ho visto che gli interventi che sono stati fatti, ho sentito da parte di persone di cui non ricordo il nome, eccetera, non hanno messo in risalto quello che è stato il grosso problema, sia da ma diversi anni fa, e forse lo si continua meno adesso, si è data la precedenza al muscolarismo e non alla tecnica. Ragazzi che erano alti 15 centimetri in più o pesavano 10 kg in più venivano preferiti ragazzi tecnicamente superiori. Questo nessuno l'ha detto ed è stato il grosso problema. Il settore dilettantistico ha nel suo complesso molti ragazzi di talento, ma nessuno lo segue. Le posso garantire che osservatori non se ne vedono mai. Io lo seguo da moltissimi anni, anche su segnalazione delle società non si vede mai nessuno. L'incompetenza tecnica, lei pensi che sulla Gazzetta di oggi, a pagina 17, la Gazzetta dello Sport, ce l'ha qui davanti. Consiglia ragazzi, se potete andate all'estero. Sì. Andiamo. Insomma, mi pare questo esagerato. E per finire poi, quindi, sulla incapacità degli allenatori e dei tecnici nel scegliere, nel capire le caratteristiche tecniche atletiche di un ragazzo. Questo è un problema enorme, basti vedere la scarsa qualità, e penso che sia inconfutabile, del nostro campionato e della nostra nazionale superiore. No, questo è vero, sono d'accordo. Ieri ho seguito ad esempio l'amichevole del Milan a Varese, giocata a un ritmo bassissimo, come tutte le partite di questo periodo, chiaramente ed è normale che sia così. Nonostante questo, alcuni giocatori, penso a Oddo ad esempio, ma non è una questione assolutamente di riferimento personale, hanno commesso errori tecnici che sono stati veramente banali e chiari, e probabilmente questo dipende anche da una valutazione a monte da parte di chi lavora su questi giovani. E ribadisco, all'estero, soprattutto in Sud America, dove ancora ci sono i giocatori più tecnici in assoluto, si cresce meglio in questo senso, perché si gioca ancora in strada, soprattutto da piccoli, da giovani, e si matura quella creatività, quella fantasia e quella necessità che da noi ormai sono venute meno, perché si va subito nelle scuole calcio e si è subito indirizzati sotto diversi punti di vista, tattico, fisico, tecnico e muscolare, e quindi a quel punto poi si perde molta libertà, molta fantasia, molte esigenze che anche i giocatori africani, che mantengono una tecnica pazzesca, anche se poi la loro razionalità e la loro capacità tattica sono sempre migliorabili, hanno, perché crescono in situazioni disperate in cui devono giocare con il pallone che rimbalza male, con le strade che sono dissestate, e quindi devono abituarsi a vivere in condizioni che ormai da noi sono lontane, se pensate semplicemente che diverse squadre anche a livello giovanile ormai si allenano sul campo sintetico, che tutto ha tranne che la imprevedibilità di un terreno normale, quando piove, quando non piove ed è più duro, e tutta una serie di considerazioni che ci farebbero dilungare troppo. Ancora un po' di calcio in quest'ultima parte, poi spazio in chiusura alla Formula 1. Ci sono alcuni messaggi che ribadiscono anche l'attenzione tecnica, non solo nazionale, del nostro pubblico. Giacomo da Trieste dice giustamente: dopo Santa Cruz e Barry, anche Tevez, ora il Manchester City finalmente si struttura in maniera intelligente, senza inseguire stelle di prima grandezza non interessate. È vero, poi per costruire una grandissima squadra servono anche altri aspetti, altre qualità. Certo, se rimane Lano, se rimane Robinho e se si comporta anche un po' meglio rispetto all'anno scorso, se Mark Hughes torna a gestire la squadra come faceva quando era manager del Blackburn, ovvero molto bene, il City può progredire. Mentre Ricky da Mantova dice: Cannavaro è un ottimo investimento, anche perché arriva a parametro zero, serve per far crescere Ariaudo. Non è che tutti i giovani hanno bisogno di un tutore in squadra per crescere ed essere al miglior livello. Già avere un allenatore come Ciro Ferrara, che è stato un grandissimo del ruolo, sarebbe stato più che sufficiente, e non si può giustificare l'acquisto di Cannavaro solo con questa valutazione e motivazione. Marco da Padova, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Io volevo intervenire sui giovani. Prego. Per dire che a volte succede che un calciatore molto bravo inizia molto bene in Serie A e poi inspiegabilmente, se non per motivazioni che poco hanno a che fare col calcio, viene poco considerato, ceduto. Penso in particolare a quello che è successo a Miccoli con la Juve. Grazie. Sì. No, questo è vero, è vero, e purtroppo fino a qualche anno fa, purtroppo e per fortuna perché si stava un po' meglio, ci si poteva permettere anche questo tipo di valutazione molto rapida, e ci si poteva permettere di non aspettare. Il Milan ad esempio non si è mai messo neppure nelle condizioni di dover aspettare o di provare ad aspettare, perché per filosofia negli ultimi anni ha sempre scelto e acquistato giocatori già pronti, formati, anche non giovani, che potessero inserirsi in un ambiente nuovo senza particolari difficoltà, cosa che invece va concessa ai giovani che magari arrivano dall'estero, arrivano da un'altra città, arrivano da un contesto completamente differente, lontano dalla famiglia, eccetera, e quindi possono avere necessità di un po' di tempo, e tutto questo concorre poi alla formazione di un calciatore, perché siamo abituati a valutarli in maniera molto automatica e spesso anche distaccata, ma non bisogna mai dimenticarsi che parliamo di uomini che quindi hanno sensibilità diverse, capacità di adattamento diverse, livello culturale diverso, e tutto questo incide poi nella maturazione complessiva di un calciatore. In chiusura, naturalmente, non ci siamo dimenticati di ricordarvi un parallelo molto provocatorio e più che altro ironico tra l'attuale José Mourinho e quello degli ultimi tempi al Chelsea. Prima però qualche minuto con Mario Poltronieri per parlare di Formula 1, perché a proposito di maturazione, Mark Webber ieri è arrivato un po' avanti con gli anni alla sua prima vittoria in Formula 1, e addirittura ora Mario ci si pone il dubbio se lui o il suo compagno di scuderia debba essere considerato il vero capitano in vista del duello per il titolo mondiale. Buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Massimo. Dunque, entriamo subito nel vivo della mischia. Entrambe le squadre che sono in lotta per il mondiale, cioè la Brown GP che è ancora davanti e la Red Bull, dovranno decidere appunto chi favorire, perché vedendo la classifica si nota che gli scarti sono minimi. Per esempio tra Webber e Vettel si tratta di un punto e mezzo, quindi bisognerà a un certo punto decidersi da fare. Mentre nel caso di Barrichello, al di là dei problemi che ha avuto ieri, che poi tutto sommato sono anche imputabili a quella sfortuna del bocchettone della benzina, che come spesso succede non ha funzionato subito, diciamo che il vantaggio di Button è abbastanza forte, 68 punti contro 44, perché non possa pretendere di fare la gara come se fosse una prima guida, quindi si deve rassegnare. Nel caso invece della Red Bull il problema è aperto, è chiaro che se come è successo in questa gara e nella precedente si rubano punti tra di loro, questo è vantaggio di Button, il quale ha detto appunto sono stato fortunato. La realtà è però che il trend tecnico sembra nettamente più favorevole alla Red Bull, quindi il problema di capire qual è la squadra favorita adesso e lo si potrà sapere in Ungheria a fine luglio, quando ci sarà una corsa che solitamente è in un'atmosfera calda, infernale. Le gomme si comporteranno in modo diverso, perché il problema della Brown, dicono, è che non riesce a mettere in temperatura le gomme perché ha una macchina ben assettata ma che non le sfrutta, quindi bisogna che le gomme si scaldino abbastanza per fare presa sul terreno. Io non sono convinto che sia solo questo il problema nei rapporti della Red Bull, però comunque il campionato rimane molto aperto. Per chiudere, Mario, abbiamo un minuto e mezzo, ti sottopongo le dichiarazioni di Stefano Domenicali post Nürburgring. Abbiamo gli ultimi sviluppi da portare in gara, novità aerodinamiche, domenica abbiamo avuto una strategia positiva, ovvero ieri gli avversari fanno passi da gigante, abbiamo, lo sappiamo, limiti di aderenza e dobbiamo capire perché ci sono differenze di rendimento così ampie tra le gomme da un weekend all'altro. In un minuto, quali sono le tue considerazioni? Le considerazioni sono che le gomme, effettivamente da quando la Bridgestone ha avuto la fornitura unica, sta facendo dei numeri strani, porta sempre delle gomme che per qualche motivo creano dei problemi. Già è assurdo il fatto di dover usare obbligatoriamente due tipi di gomme diverse, ma al di là di questo problema, nel caso della Ferrari, oltre a lodare la corsa di Massa che ha fatto veramente molto e che è già quinto con 22 punti nella classifica, quindi indiscutibilmente valida la sua prova, al di là poi di discorsi arriverà Alonso, va via Raikkonen e così via, la Ferrari sarebbe bene che si buttasse decisamente sulla progettazione della macchina nuova, perché non dimentichiamoci che l'anno venturo non ci sarà rifornimento, quindi bisogna fare una macchina con serbatoio molto più grande, poi ci saranno le gomme anteriori più piccole, quindi una distribuzione di pesi e una forma aerodinamica diversa, per cui credo che sia inutile cercare il risultato. Se si può, va bene, come ieri hanno avuto una strategia saggia nel caricare molto le macchine di benzina, ma secondo me devono puntare subito sull'anno venturo. Grazie Mario Poltronieri, a presto. Ciao Mario. Chiudiamo, come promesso, con un parallelo tra il José Mourinho attuale e quello del Chelsea. Sentiamo, risentiamo insieme le sue parole nella prima conferenza stampa di questa stagione. Mourinho ha ragione quando dice che la Champions è la competizione dei dettagli, però è anche la competizione della qualità. Nessuna squadra vince la Champions senza super qualità nella sua rosa, super qualità nella sua squadra. Come competizione dei dettagli tutto può succedere, però come competizione della qualità non siamo allo stesso livello che 3-4 squadre importanti in questa competizione. Possiamo vincere? Sì, perché è la competizione dei dettagli. In qualche volta può succedere che i dettagli sono amici. Quello che non posso fare è fare miracoli. Merlin, Harry Potter non sono io sicuramente. Così parlò José Mourinho pochi giorni fa, ora l'Inter è a Los Angeles. Così parlò José Mourinho al Chelsea a metà settembre del 2007. You know, omelets, eggs. No eggs, no omelets. And depends of the quality of the eggs. Uova, omelette, sapete, dipende dalle qualità delle uova cosa poi ne esce come omelette. Quella fu la sua ultima conferenza stampa al Chelsea, perché poi pareggiò con il Rosenborg in Champions League e Abramovic decise di chiudere così la sua avventura sulla panchina dei Blues. È una provocazione chiaramente con il grande provocatore di questo ultimo biennio ormai in Italia come protagonista. Grazie a voi, a domani, grazie da Massimo Callegari, a risentirci su Radio 24 con A Tempo di Sport, grazie a Fabio Suardi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Buon pomeriggio.